E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, beh, il doppio vertice innanzitutto, quello a Shanghai, che è un vertice un po' del mistero, adesso capiremo perché, in cui i banchieri centrali, ospiti del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Centrale Cinese, avrebbero dovuto discutere nel pieno della cosiddetta guerra delle valute di come stabilizzare, diciamo, i rapporti di cambio, e poi invece il vertice a Bruxelles, che invece in questo momento sta fornendo qualche indicazione in più. Sembra che si stia arrivando dopo molte difficoltà, erano in alto mare i paesi dell'area euro nel trovare un accordo, in questo caso sulle sanzioni da attribuire all'area euro. Dicevo, sembra che forse si arrivi a uno sblocco, parleremo di questo in apertura. E infatti in realtà i ministri sono riuniti in Lussemburgo, i ministri finanziari cercano di arrivare a un'intesa da portare poi ai vertici del capi di Stato e di Governo in merito alla riforma del patto di stabilità, cioè ossia il patto che regola le sanzioni, le punizioni per i paesi che non lo rispettano quanto a tetto del deficit e debito, tema delicatissimo. Sappiamo che l'Italia aveva chiesto di sommare debito privato e debito pubblico, questa linea non è passata, è passata una linea in cui si terrà conto anche dell'indebitamento delle famiglie. L'Italia ha basso debito privato e alto debito pubblico, e quindi spingeva per un'idea di un calcolo dei due debiti messi assieme. Chiaramente l'Europa questo l'ha respinto. Però c'è stata una parziale apertura dicendo che nelle valutazioni sulle sanzioni da dare si terrà anche conto appunto di se e quanto alto sia il debito delle singole famiglie. È chiaro infatti che un paese, se ha i due debiti alti, è in maggiore difficoltà, ma è anche chiaro che non si può considerare il risparmio delle famiglie come parte, diciamo, del bilancio pubblico complessivo, perché insomma, a meno che non voler utilizzare tasse sui risparmi. Ancora per quello che riguarda i mercati, sono positivi, erano un po' più positivi circa un'ora fa, adesso fanno lo 0,7% di rialzo a Milano, mentre Parigi invariata, Francoforte più 0,25%, Londra come Milano più 0,70%, l'America più 0,3%. L'euro, dopo un iniziale indebolimento, resta sempre a quota 1,40, quindi nessuna novità arriva dal vertice di Shanghai. Tra i titoli segnaliamo che se l'automatica è negativa dell'1,5% media, se dell'1,3% Fiat dello 0,90% è più che positiva, assieme a un'altra pattuglia di titoli, in primo luogo Unipol, ne parleremo, più 2,77%, poi c'è Intesa San Paolo più 2,2%, Ubibanca più 2%, come Unicredito l'1,90% lo guadagna la Popolare di Milano, l'1,60% Azimut, 1,5% rialzo invece di Monte dei Paschi, l'1,4% quello di Finmeccanica, Banco Popolare più 1,20%, Enel, nel giorno in cui è stato ufficialmente presentato il collocamento in borsa di Enel Green Power, ne abbiamo già parlato, sentiremo anche un'intervista con il numero 1 Fulvio Conti, più 1,1%. Parleremo nella seconda ora del programma anche da un lato dell'andamento dell'Euribor, adesso vi spiegherò perché, insomma il tasso che usano le banche per finanziarsi tra di loro e che viene utilizzato come riferimento per i mutui a tasso variabile è salito ai massimi da inizio 2009, non è un livello incredibile, però insomma è sempre un livello alto, e su questo vorremmo capire cosa capita ai mutui. Ma il secondo tema delle 18 in poi riguarderà invece il rapporto di Legambiente, in cui purtroppo, lo dico perché è un tema che a noi sta molto a cuore, c'è di nuovo allarme ambientale nelle grandi città italiane. Ad eccezione di Torino, tutti i centri urbani con più di 500.000 di abitanti vedono peggiorare il loro stato di salute ambientale. Tra questi Milano, Roma, Napoli e Palermo, Il rapporto Legambiente è realizzato con il Sole 24 Ore, sarà l'oggetto della seconda parte del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Sempre fermo, poco sopra gli $80 al barile, 81,7 il petrolio, l'oro con il leggero recupero che c'era stato del dollaro ha frenato la corsa, comunque siamo a $1,361 l'once. Dicevo, il tasso Euribor, il tasso interbancario, quello che serve per calcolare i nostri mutui se sono a tasso variabile, è salito all'1%, è il livello più alto dal luglio del 2009. Come mai? Come si spiega? Beh, in sostanza, soprattutto la tendenza all'aumento dell'Euribor si è registrata dopo che la Banca Centrale Europea aveva chiarito che intende procedere ad una rimozione delle misure non convenzionali, quelle di estrema liquidità e tassi bassissimi, rimozione graduale delle misure non convenzionali adottate per contrastare la crisi. Questo non implica, ripeto, una variazione sui tassi di interesse ufficiali, che resteranno all'1%, ma si può implicare, adesso sarà tutto da vedere, un possibile drenaggio della liquidità, cioè la Banca Centrale Europea va a riassorbire la massa monetaria che c'è in circolo, e questo potrebbe far salire non il tasso ufficiale ma i tassi interbancari, come in effetti è avvenuto oggi. Allora, veniamo a un elemento che per noi acquista i toni, e adesso capite perché, lasciateci sfottere ogni tanto anche il Fondo Monetario Internazionale, i toni di un vero e proprio giallo. Perché questa mattina all'alba, alle 6:30, tutti i mercati si sono mossi guardando a Shanghai, dove era iniziato il summit dei banchieri centrali con la banca centrale cinese, col fondo monetario. L'oggetto doveva essere un accordo mondiale per fermare la guerra dei cambi. E infatti l'euro si era indebolito, il dollaro si era un po' rafforzato nei confronti dell'euro, nei confronti dello yen. Insomma, sembrava che da lì sarebbero dovute arrivare notizie epocali, o perlomeno importanti. E invece poi, 6 ore dopo, cioè quando era ormai l'1 in Italia, scopriamo che a Shanghai, dove ormai erano le 9 di sera, non si è parlato dei cambi, delle valute, né della guerra in corso. Di cosa avranno parlato? Ma di un tema pregnante da risolversi subito, come la fragilità del sistema finanziario. In una nota diffusa prima della conferenza stampa, infatti, viene esplicitato come non si è toccato il tema dei cambi, ma si è ragionato di politiche macroprudenziali, dal momento che fissare le fragilità nel sistema finanziario globale è una priorità importante. E poi però Dominique Strauss-Kahn, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, se ne è uscito con una dichiarazione importantissima, nuova, devastante da un punto di vista intellettuale: il 21esimo secolo sarà il secolo dell'Asia. E anche su questo vedo l'espressione dei tecnici, che si potrebbe tradurre con una combattuta romana, ma non lo facciamo perché non siamo volgari. Allora, lo stesso Strauss-Kahn ha detto: bisogna collaborare, la ripresa è in pericolo. E poi il Fondo Monetario ha detto: non c'è nessuna guerra sulle monete, ma un approccio coerente e cooperativo. E infatti l'euro è 1,40 e tutto è come prima. Almeno avranno visto Shanghai, che è una bellissima città, avranno avuto modo di parlare di altro, di mangiare bene. Dal punto di vista operativo non si capisce, lo diciamo con massimo rispetto, perché si siano visti. Dai, torniamo a parlare di cose serie. Certo, poi la Banca Centrale Cinese ha detto: faremo una riforma graduale dello yuan, ci mancherebbe, mai aver fretta. E poi faremo una politica inclusiva, anche lì capire cosa vuol dire in Cina nei prossimi 5 anni. Vuol dire in sostanza che la Cina vuole assorbire ancora decine e decine di milioni di contadini, ne ha 400 di milioni nelle campagne. E quindi eliminare le differenze tra i ricchi abitanti delle città e i meno ricchi, se non sulla soglia di povertà, abitanti delle campagne. Vabbè, dall'America è arrivato un dato sulla produzione industriale che è tornato a segnare un calo per la prima volta dal giugno del 2009, mentre buone notizie arrivano dalla Germania, la vera locomotiva, l'unica locomotiva dell'Europa. Secondo la banca centrale tedesca, la Bundesbank, infatti la crescita tedesca quest'anno può superare il 3%, che vuol dire il doppio della media europea e tre volte quello che farà l'Italia. L'accordo sugli esuberi di UniCredit, ne abbiamo già parlato nel GR, comunque un tema delicatissimo perché riguardava inizialmente 4.700 persone e previste prima ancora delle dimissioni di Profumo dal riassetto per la banca unica. L'intesa invece, da quanto si è appreso da fonte sindacale, riguarderà 3.000 persone, che sono sempre tante, però molte meno rispetto al piano iniziale, e per queste 3.000 persone vi sarà la possibilità di decidere l'uscita volontaria fino al 15 novembre di quest'anno. Se non si arriva a 3.000 adesioni volontarie, poi a quel punto vi sarà l'uscita forzosa, a cominciare dai dipendenti che hanno 40 anni di contributi. Tra l'altro l'accordo raggiunto con i sindacati prevede però che venga anche regolarizzato il problema dei 6.000 lavoratori in attesa dallo scorso luglio di entrare nel fondo esuberi, e poi la stabilizzazione a tempo indeterminato di 1.700 apprendisti e l'assunzione di 1.121 giovani. Tutti i sindacati hanno firmato, anche la CGIL. La soddisfazione di Massimo Masi, segretario generale della UILCA, al microfono della nostra Valeria De Rosa. Ha dato atto che la cosa è stata fatta da tutte le sigle. Questo è il primo risultato, soprattutto perché uscivamo da un accordo in Banca Intesa, dove Intesa San Paolo, dove FISA che non aveva firmato FISA CGIL. Qui invece l'accordo è unitario, quindi certamente questo è un dato molto positivo. E poi c'è un dato, l'altro dato positivo, che abbiamo dato una risposta a chi diceva che il sindacato era marginale in questa azienda, dove contavano più le fondazioni e la politica rispetto ad altri. Quindi questo è un doppio risultato per me. Guardando un po' i numeri, l'azienda puntava all'uscita obbligatoria di 4.700 persone. Siete riusciti a chiudere un accordo in cui ne escono 3.000, però ne entrano nei prossimi anni oltre 2.000. La particolarità e la bellezza di questo accordo è proprio questo: escono persone che hanno raggiunto o raggiungeranno nel triennio l'età pensionabile, quindi non c'è nessuna carneficina sociale. Vengono assunti, prima di tutto vengono stabilizzati oltre 1.100 lavoratori che erano precari all'interno di UniCredit, e vengono stabilizzati i loro rapporti di impiego. Secondo punto, vengono assunti nel corso del triennio altri 1.000 lavoratori, quindi in pratica facciamo un'operazione dove escono 3.000 persone e ne entrano 2.200. Credo che è un'operazione, credo, molto molto bella, che vada nel senso di dare una risposta ai dati della disoccupazione all'11,5%. Questa è una risposta che credo sia molto importante, perché sono 2.000 posti nuovi, 2.000 posti sicuri, 2.000 posti a tempo indeterminato. E sullo stesso accordo, importante quanto ricordava Massimo Masi, cioè che non c'è macelleria sociale, nel senso che, possiamo dirlo con una battuta, i padri lasciano il posto ai figli, cioè chi ha più di 40 anni di contributi va, esce, ma vengono assunti, non un numero equivalente, ma comunque vengono assunti in maniera importante 1.121 giovani. Dicevo che una parte dell'accordo comunque riguarda anche soluzioni innovative per la previdenza dei neoassunti. Lo ha spiegato sempre la nostra Valeria De Rosa, il segretario nazionale della FIBA, Mauro Morelli. È il miglior accordo possibile, proprio alla ricerca, la grandissima fatica è stata proprio la ricerca di questa unità. Fin dall'inizio c'è stata la volontà di restare uniti e compatti, di rendere definitivamente l'obiettivo comune. Mi fa anche piacere che poi in finale di accordo abbiamo trovato anche l'unità per rappresentare all'azienda la volontà da parte del sindacato di mettere in piedi in Unicredito un fondo di solidarietà generazionale che possa essere messo in piedi con risorse solidaristiche e con la partecipazione dell'azienda, al fine proprio di sviluppare e attenuare le problematiche dell'occupazione giovanile, anche riferito al problema della previdenza complementare. Noi abbiamo richiesto all'azienda di mettere in piedi congiuntamente una commissione che studi un modo di arrivare a una previdenza complementare per i giovani neoassunti che possa anche compensare le problematiche pensionistiche future. Cercheremo di trovare il sistema di finanziarlo attraverso sistemi solidaristici e anche attraverso la compartecipazione aziendale. Così appunto il segretario nazionale della FIBA, che è uno dei sindacati dei bancari, Mauro Morelli. Tanto sapevo che arrivava la battuta. Profumo fa parte degli esuberi concordati? Beh, allora, sicuramente non concordati, forse esubero, però con 30 milioni di 40 milioni, scusate, di euro di liquidazione. Il rapporto Ecocittà, vedo molti messaggi, ne parliamo alle 18.10. Vi ricordo che insomma Belluno è al primo posto, male tutte le grandi città, volete sapere di Milano, è 63esima in classifica. Quanto alla pessima aria, Roma è peggio, ma anche Palermo e Napoli. Ma parliamo di economia internazionale quando se ne può parlare in maniera seria. Ripeto, vedo anche lì molti messaggi a 349-238-6666. A nostro avviso, insomma, vedersi a Shanghai per parlare della fragilità del sistema finanziario, come hanno fatto i banchieri centrali oggi con il Fondo Monetario e con la Banca Centrale Cinese, insomma, bastava anche una videoconferenza, c'è Skype, ci si può telefonare, c'è l'email, no? Un buco nell'acqua così, dopo che anche il mercato ci aveva creduto, abbassando un po' il livello del rapporto euro-dollaro, non si vedeva da tempo. Passiamo a Bruxelles, dove invece c'è un vertice importante, perché sono riuniti a Lussemburgo, il Consiglio di Bruxelles, perché è la forza dell'automatismo. In Lussemburgo oggi infatti i ministri finanziari dell'Unione Europea per un rapporto sulle nuove regole del patto di stabilità. Gli schieramenti sono facilmente individuabili: da una parte c'è Berlino, con dietro di sé tutti i paesi del nord Europa, che vuole la linea dura, durissima, chiede il massimo rigore nel mettere a punto sia la riduzione del debito sia le nuove sanzioni per i paesi. E Berlino ha l'appoggio di Bruxelles, la Commissione infatti è d'accordo con la Germania. Dall'altra parte invece ci sono l'Italia, la Francia, la Spagna e il Belgio, che chiedono meno automatismi e più flessibilità, ritenendo che un giro di vite in questo momento sarebbe dannoso per quel po' di ripresa che si vede. Lo abbiamo già raccontato, se passasse la linea dura bisogna portare il debito, bisogna ridurre la parte di debito che va oltre il 60% del PIL di un ventesimo all'anno per evitare sanzioni. Un ventesimo all'anno vuol dire che l'Italia dovrebbe pagare 130, cioè dovrebbe ridurre il debito di 130 miliardi, cioè 10 manovre finanziarie, nei prossimi 3 anni. Stiamo parlando di qualcosa come 40-45 miliardi all'anno. La Francia, che ha un debito all'83% del PIL, dovrebbe ridurre nei prossimi 3 anni il debito di 70 miliardi, anche qui 22-23 miliardi all'anno. Antonio Poglio Salimbeni, corrispondente per l'agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera a voi. Allora, c'è sto accordo oppure no? Perché nel pomeriggio le prime indiscrezioni dicevano che è una discussione molto animata, è abbastanza complicato che si arrivi a un accordo. Poi poco fa il ministro della Polonia ha detto c'è l'accordo sulle sanzioni. Illuminaci. Beh, adesso per illuminarci nel dettaglio è un po' difficile in questo momento. La verità è che appunto il ministro polacco ha confermato le voci dell'ultima mezz'ora, dell'ultima ora, che indicavano la possibilità di un accordo. Sicuramente da un certo punto della mattinata il segretario alle finanze tedesco, che sostituisce il ministro Schäuble, ancora malato, ha cambiato posizione, ha smussato un po' gli angoli avvicinandosi più alla posizione francese e quindi alla posizione sostenuta da italiani, belgi, spagnoli, sul grado di automatismo al momento della decisione se combinare effettivamente delle sanzioni ai paesi che non rispettano gli impegni e le raccomandazioni europee di consolidamento del bilancio. Di più per ora però non si sa. Io vorrei però capire, dopo il meteo, Antonio, a quale tipo di accordo si potrebbe arrivare. Cioè, voglio dire, è chiaro a tutti che al di là delle enunciazioni di principio bisogna ridurre il deficit e il debito, siamo tutti d'accordo, anzi in questo programma ne abbiamo sempre fatto un punto di onore, ma 130 miliardi in tre anni per l'Italia, 70 miliardi in tre anni per la Francia sono impensabili, nel senso che la Francia e l'Italia hanno una ripresa, l'Italia debole, la Francia leggermente meglio, ma insomma niente a che vedere con la Germania. Tirar fuori o non poter spendere dal budget o recuperare con le tasse, con i problemi che ha Sarkozy in questo momento con la riforma delle pensioni, 70 miliardi in Francia e 130 qui, è impensabile. Vorrei capire come si potrebbe aggirare sostanzialmente l'ostacolo pur mantenendo formalmente, insomma, il richiamo al rigore. La risposta dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:35 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Antonio Poglio Sonimbeni, pur sapendo che tu non sei il mago Telma né Apollonio, per citare il mitico Tremonti a Rimini, e puoi leggere nel futuro, ma insomma, dove si troverà il punto di caduta tra le esigenze della Germania a dimostrare ai mercati che l'Europa ha il rigore in testa e le esigenze di Francia, Italia, Belgio di non strangolare una ripresa economica sul nascere? Guarda, è possibile che sia tolto a un certo punto dal tavolo il riferimento al numero, alla quantità del taglio che dovrà essere fatto al debito pubblico per quella parte eccedente il 60% del prodotto lordo. O può darsi che può darsi che sia dato più tempo ai paesi per l'analisi retrospettiva, ma per verificare se hanno effettivamente tagliato il debito nella misura prevista, ma in termini molto generali. Effettivamente la soluzione tecnico-politica trovata ancora non si conosce, ma quello che è certo è che si va verso una soluzione che ammorbidisce un criterio quantitativo con ogni probabilità e rende meno automatico il passaggio alle sanzioni. Questo è già molto per il fronte dei paesi che volevano appunto delle regole meno, diciamo così, dogmatiche. Ecco, quindi Francia, Italia, Belgio. Ci chiedono gli ascoltatori, trovo la domanda assolutamente pertinente, ma tanto che possibilità aveva la Germania o avrebbe la Germania di imporre il suo rigore massimo se c'è il diritto di veto? No, dunque qui non c'è il diritto di veto perché è in discussione l'Ecofin comunque deciderebbe o a maggioranza qualificata, grosso modo 2/3, o a maggioranza semplice. Non è prevista l'unanimità come metodo di voto. Per cui l'ipotesi del diritto di voto, grazie per avercelo ricordato perché la domanda la trovo assolutamente pertinente, è esclusa in questo caso, per cui in realtà potrebbe passare anche a maggioranza semplice, ma è chiaro che insomma non converrebbe a nessuno arrivare a una spaccatura del genere. Vedremo se entro stasera, qualche orario, qualche idea dell'orario? Può darsi che entro un paio d'ore si possa sapere di più. Vabbè, noi siamo qui fino alle 18:30, poi ci sono i nostri GR, grazie a Antonio Poglio Sonimbeni in collegamento con noi da Bruxelles, da Lussemburgo in questo caso, grazie, oggi non ce la faccio. Visto che è corrispondente da Bruxelles per l'agenzia di stampa Radio Cor, il Sole 24 Ore. E allora, se a Shanghai resta il dubbio, se qualcuno sa perché si sono visti i banchieri centrali a Shanghai, incluso Mario Draghi, incluso il banchiere centrale cinese, incluso il direttore del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn, perché escludo che possano essersi visti per la banalità con cui sono usciti da questo comunicato. Stanno ragionando sulla fragilità del sistema finanziario. Allora, se qualcuno ha notizia del vero perché, ce la scriva. Noi ancora non abbiamo capito, da stamattina che ci interroghiamo, si fa per dire, su questo, e non resta che parlare di cose un po' più fattuali, come la chiusura di borsa di oggi. Più 0,90% alla fine Milano, più 0,20 Parigi, più 0,40 Francoforte, più 0,60 Londra, più 0,31 l'America, l'euro a quota 1,3960, quindi l'effetto Shanghai è durato una mattinata. Unipol più 2,70, Unicredito più 2,4, Ubibanca più 2,4, Intesa più 2,4, Popolare Milano più 2%, sono tutti bancari i primi 5 titoli. Azimut più 1,70, Finmeccanica più 1,60, Monte dei Paschi più 1,5, come Banco Popolare più 1,40, Mediolanum più 1,30, Mediobanca più 1,20, CIR più 1%, come Fondiaria, Enel, Prismian e Terna. Fronte opposto invece Mediaset meno 1,3 come l'Automatica, lo 0,7 l'Opera de Fiat e anche Italcementi, lo 0,60 il calo di Ansaldo e di Impregilo. Come sempre con Radio Corri sulle 24 ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Partiamo dalle banche. Io partirei da Intesa, perché venerdì è arrivata la notizia che acquisterà il pacchetto di maggioranza di Banca Monte Parma, lasciando a bocca asciutta altri pretendenti, a partire dalla Popolare di Vicenza, per cui che Monte ci sperava, non era l'unica. Intesa. Allora sì, Intesa, diciamo, venerdì sera, in tarda serata, ha annunciato l'operazione con cui ha acquisito il 51% di Banca Monte di Parma e allo stesso tempo ha annunciato che parteciperà per questa quota all'aumento di capitale da 75 milioni della banca emiliana, un'operazione che oggi è stata, diciamo, sostanzialmente promossa dal mercato, visto che Intesa San Paolo ha guadagnato il 2,38%. D'altra parte, un'altra delle pretendenti, oltre alla Popolare di Vicenza, era la BPM, che comunque ha chiuso subito a ridosso di Intesa San Paolo con un guadagno del 2,01%, anche se non ha completato l'operazione. E questo per quello che riguarda Intesa. Bene, anche. Allora, volete sapere perché il mondo bancario si è mosso bene? Beh, c'è anche un dato importante, che è quello di Citigroup, l'ennesima banca d'affari americana che torna a avere utili record, già si erano riprese bene nel 2009, già i bonus erano tornati a livello del primo del 2008, adesso anche l'utile a 2 miliardi e 170 milioni nel terzo trimestre, 7 centesimi di dollaro per azione, un risultato superiore a ogni attesa, anche perché un anno prima aveva riportato utili per 100 milioni Citigroup, banca salvata di fatto dall'intervento massiccio del governo americano, 70 miliardi mise al tempo per tenerla in piedi. E poi c'è l'outlook di Fitch sul settore bancario. Oltre ai bancari, Terna, perché oggi è arrivato un annuncio di acconto sul dividendo. Sì, un acconto sul dividendo che è più ricco di quello dell'anno scorso, sono 8 centesimi per azione quest'anno, in crescita del 14% rispetto allo scorso anno. Inoltre la società ha annunciato di aver firmato un accordo con un fondo di private equity, Terrafirma, per la vendita del 100% di Rete Rinnovabile, che è la società controllata che lavora nell'ambito del fotovoltaico. Il prezzo dell'operazione si attesterà fra i 620 e i 670 milioni di euro, con un closing dell'operazione previsto per il primo trimestre del 2011. Terna ha già guadagnato lo 0,96%. Ancora, volete sapere, è lunedì, io vi capisco, anche della Lazio, poi parleremo anche di Mediaset. La Lazio è il miglior titolo anche oggi, più 28,5%, attenzione, il flottante è veramente ridicolo, e Sopaf più 11,1%, Lazio e Sopaf. Sì, per quello che riguarda la Lazio continua la speculazione che aveva già riguardato il titolo nelle ultime settimane, oggi ha continuato a fare questo balzo, è balzata anche la Juventus che ieri ha vinto il campionato. mentre per quello che riguarda Sopaf in realtà non ci sono notizie particolari, è un titolo che comunque anche in questo caso ha un flottante abbastanza risicato e non è nuovo a giornate di exploit in cui guadagna ad esempio il 10% per poi magari perderlo nelle sedute successive. Il peggiore per precisione Meridie meno 3,60, assieme a Pirelli Real Estate meno 3,30, PMS meno 3 e Noema Life meno 4,80. Ma che fa Noema Life? Boh. No, chiedo. Adesso ci informiamo subito in regia, perché non voglio essere impreciso, visto che veramente non so cosa faccia, meno 4,80%, chiedo venia per l'ignoranza, ma qui però sono abituati gli ascoltatori. Mediaset meno 1,30%, l'automatica meno 1,20%, Fiat meno 0,70%, Mediaset e l'automatica. Allora, per quello che riguarda Mediaset continuano a pesare le inchieste giudiziarie. Oggi è arrivata la notizia che nell'ambito della vicenda del lodo Mondadori, la querela che appunto vede contrapposto da un lato De Benedetti e dall'altra Silvio Berlusconi, in base a questa querela sembra che appunto non sia stata ammessa la richiesta dei legali della Fininvest per quello che riguarda un'ulteriore indagine rispetto al danno presunto di 750 milioni di euro legato al lodo Mondadori. Questo ovviamente non è una buona notizia per Fininvest, che avrebbe voluto un supplemento di indagine per far scendere questa cifra, e Mediaset oggi paga un po' questo. Ricordiamo anche che venerdì era arrivata la notizia che lo stesso Silvio Berlusconi e il figlio Pier Silvio erano indagati a Roma per reati fiscali relativi ai diritti TV. Allora, intanto abbiamo scoperto, grazie agli assistenti di regia, cosa fa Noema, buonanotte, Noema Life, non Noemi Life. Noema Life fa soluzioni di software per processi clinici, per la diagnostica in campo medico, ed è un'azienda italo-tedesca. Lo dico nel massimo rispetto, non sapevamo cosa facesse. Torniamo ai titoli più noti e più grossi. Fiat meno 0,70%. Dopo il traffico vorrei parlare con te, Guido, anche di Finmeccanica, nel giorno in cui nuove dichiarazioni complicano la situazione per il numero uno Pierfrancesco Guarguaglini, Mockbell, ricordate l'inchiesta, ma in realtà come si è mosso il titolo su altre notizie di mercato. 349-238-6666 per i vostri sms. Ecco quale sms: fa programmi per ospedali, per l'informatica degli ospedali. Perfetto, era più o meno quello che avevamo scoperto anche noi. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, alcune risposte. Cos'è il flottante? Avete ragione, ho usato un termine specifico e tecnico. È la parte delle azioni di un titolo che può essere scambiata in borsa. Flotta, appunto, quella che viene messa in compravendita ogni giorno, quindi quella che si può scambiare. Quando un titolo ha un basso flottante vuol dire che le azioni scambiate che si possono scambiare sono poche, pochissime, quindi basta poco per muovere il titolo, bastano poche operazioni e pochi anche soldi delle volte per muovere il titolo. Comunque, Guido Maurino, torniamo ai temi nostri. Finmeccanica. Sì, per quello che riguarda Finmeccanica oggi ha chiuso positiva, più 1,66%, dopo che il numero uno della società, Pierfrancesco Guarguaglini, ha rassicurato sui conti del gruppo, ha spiegato che i target dati dalla società a gennaio restano validi e che anche il taglio per le spese militari annunciati dal governo britannico in realtà non dovrebbero avere impatti significativi sul gruppo. Ancora per quello che riguarda i titoli, c'è anche chi critica, dice ma insomma vi siete occupati di titoli così sottili che non vale la pena occuparsene, mamma mia, ogni tanto ci occupiamo anche dei minori in assoluto. Comunque Italcementi meno 0,6, Ansaldo meno 0,6, come è andata Enel nel giorno in cui della quotazione di Enel Green Power è salita dell'1%. E allora, nel ringraziare Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore, occupiamoci del più importante matricola di borsa, appunto Enel Green Power. Eh sì, perché è partito oggi e si concluderà il 29 ottobre il collocamento di Green Power sul mercato, il 32,8% del capitale, il 12,5% destinato ai risparmiatori, al pubblico, il resto invece agli investitori istituzionali. La forchetta di prezzo è compresa tra 1,8 e 2,9 euro per azione, l'incasso è stimato appunto sulla base di quella che poi sarà il prezzo definitivo tra 2 miliardi e 9 e 3 miliardi e 400 milioni di euro, e si tratta, così mi correggo, del più grosso collocamento in borsa in Europa dal 2007 quanto a valore. Cosa fa Enel Green Power? Chiaramente del gruppo Enel, ma insomma è dedicata alla produzione energetica solamente dalle fonti rinnovabili. Ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, 21 miliardi di kilowatt ora l'anno di potenza, di capacità produttiva, praticamente sono i consumi di 8 milioni di famiglie. Il mix energetico comprende eolico, solare, idroelettrico, biomassa e geotermico. C'è chi dice che però la parte del leone la faccia, non ha torto, l'idroelettrico e il geotermico. Il valore della società calcolato in circa 10 miliardi di euro, ecco perché l'Enel se ne colloca il 32%, si aspetta sui 3 miliardi di raccolta. Entro il 2014 intende investire 5 miliardi di euro prevalentemente nell'eolico. Confermati gli obiettivi sul debito oggi dal numero uno di Enel, Fulvio Conti, e tra l'altro con la bonus share, ha detto Conti, si arriverà a un rendimento tra il 5% e il 6% garantito come rendimento delle azioni. Sentiamo Fulvio Conti al microfono del collega di Radio Corriere sulle 24 ore. Ciao Condine. È una condizione dove nel 2013 ci sarà sempre di più un bisogno di ridurre gli impatti di anidride carbonica emessi nell'atmosfera. Sviluppare le tecnologie rinnovabili è all'interno di Green Power non solo un bisogno evidentemente strategico, ma anche una grandissima opportunità, per cui offrire le azioni di questa ottima azienda in questo momento sul mercato vuol dire dare il segnale di fiducia e di attenzione nei confronti dei risparmiatori, che da azienda dell'Enel hanno solo da ottenere dei risultati crescenti, significativi e degli ottimi rendimenti. Certamente le rinnovabili fanno parte di un mix ideale di generazione di energia, dove si coniuga l'efficienza energetica, le reti intelligenti che vengono anche attraverso il contatore digitale, ma anche e soprattutto sviluppi di combustibili fossili tradizionali con le nuove tecnologie a basso impatto ambientale, e delle rinnovabili, come ben sappiamo, che di impatto ambientale non ne danno. Quindi l'insieme, il mix di queste tecnologie renderà possibile ottenere la soluzione di questa equazione energetica che noi perseguiamo da sempre. E poi però un dubbio, perché nel resto d'Europa operazioni simili, cioè collocare in borsa una società che lavora sulle fonti rinnovabili, non si sono concluse positivamente. Allora la risposta, il perché invece non dovrebbe andare così, nelle intenzioni dell'Enel, sempre il numero uno Fulvio Conti. Il problema degli altri è che sono entrati nel mercato quotando 25 volte il margine operativo lordo, come se fosse una bolla speculativa. A quel momento il mercato, giustamente credo da questo punto di vista, ha riportato quei valori a valori più corretti. Noi quotiamo ai valori corretti di oggi e siamo convinti che sia un'offerta correttamente posizionata. Alcuni di voi ci dicono che è troppo ampia la forchetta, ma questo non è che io sia un esperto di collocamenti di borsa, anzi, però non mi sembra tra 1,8 e 2,1 euro, non mi sembra questo margine enorme. Abbiamo visto cose ben più ampie in tante matricole di borsa di una volta. Il flottante è quello che fluttua, certo, fluttua. Se ho detto qualcosa di diverso chiedo venia. Fluttua il flottante. E per quello che riguarda invece le prospettive di Enel, sempre al microfono del collega Cio Condine, sempre Fulvio Conti. Lo vedo positivo, evidentemente. L'Enel è un'azienda ormai consolidata nei mercati globali dell'energia, con un modello di business integrato dal controllo delle chilocalorie fino alla conversione in kilowattore, con un mix diversificato particolarmente spinto, con tutte le tecnologie, incluso il nucleare che vorremmo poter riportare anche nel nostro Paese, con una forte, fortissima presenza nel settore delle rinnovabili e con 61 milioni di clienti in giro per il mondo che noi serviamo con tutti i nostri prodotti. Margini crescenti e una grande spinta di investimenti. Noi siamo un'azienda del Paese per il Paese che opera in altre realtà operative e che si distingue per la sua capacità di generare reddito a vantaggio di tutti gli azionisti. Domanda d'obbligo e risposta però altrettanto scontata, insomma. La domanda andava fatta, come vede il futuro per Enel? La risposta era immaginabile, difficile che un amministratore delegato dica lo vedo male. Invece, adesso chiudiamo perché c'è il GR, poi ripartiamo con altri due temi, mi riferisco al tasso Euribor, quello per i mutui che è salito ai massimi dal luglio del 2009 e al rapporto Legambiente. Volete sapere come mai Enel dice un rendimento garantito? Perché c'è la bonus share, l'azione in bonus, e quindi il ragionamento è chi conserva le azioni per un anno avrà meno il 5-6% garantito. È chiaro che se poi il titolo perde il 10% c'hai un 4% in meno. Comunque GR, poi torniamo in diretta, 349-238-6666 per i vostri SMS. 18:11 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver parlato dell'incontro misterioso di banchieri centrali a Shanghai. Non si capisce perché si siano visti a sto punto, se non hanno parlato di valute ma della fragilità del sistema finanziario, e dopo aver anticipato che probabilmente invece si arriverà a un accordo in Lussemburgo tra i ministri delle finanze europee sulle sanzioni per i paesi che non rispettano l'abbassamento del debito, del deficit, ma un accordo che tenga dentro anche l'opposizione francese, belga e italiana, quindi meno automatismi e probabilmente non indicando, vedremo la parte finale, non indicando l'ammontare della riduzione del debito, e aver commentato una borsa che comunque è chiuso in positivo a Milano dello 0,9%. Occupiamoci adesso sempre di mercati, ma di quello che sta avvenendo, per carità, senza generare allarmi, ma sull'Euribor. Cos'è l'Euribor? L'Euribor a tre mesi è il tasso che usano le banche per prestarsi soldi ed è soprattutto il tasso su cui vengono calcolati i mutui, quelli chiaramente a tasso variabile. 349-238-6666 per i vostri SMS. Eh sì, perché è un po' di giorni, che anche settimane, che l'Euribor si sta muovendo e oggi ha superato una soglia che, al di là del numero, è una soglia anche psicologica, è l'1%, è il livello più alto dal luglio del 2009 ed è il livello del principale tasso di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. Tra l'altro in Italia 3 mutui su 4 sono a tasso variabile, mentre in Germania e Francia 3 mutui su 4 sono a tasso fisso. Ricorderete l'Euribor, ce ne occupavamo molto quando fallì Lehman Brothers, era arrivato al 5%, le banche non si fidavano, non volevano prestarsi soldi, quindi costava tantissimo prendere soldi in prestito da banca a banca, e conseguentemente anche erano aumentati i mutui a tasso variabile. L'effetto sui mutui ce lo spiega il direttore marketing di Mutui Online, Roberto Anedda, già altre volte ospite di Deborah Rosciani in Savadanaio. Dottor Anedda, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Allora, al di là dei motivi li abbiamo spiegati, comunque vediamo se lei è d'accordo, i mercati si muovono su una banca centrale europea che ha fatto capire che, pur non alzando i tassi di interesse ufficiale, gradualmente tornerà a ridurre, rimuovere, abbassare le misure non convenzionali prese per fronteggiare la crisi, e quindi drenerà un po' di liquidità, assorbirà un po' di massa monetaria che circola in Europa. Intanto voglio capire se è questo che lei ha visto come movimento dell'Euribor, e poi gli effetti sui nostri mutui. Sì, è esattamente questo. In realtà l'effetto del lento riprendersi dell'Euribor è dovuto proprio al drenaggio della liquidità che prima in grande abbondanza, adesso pur sempre abbondante, ma via via un po' meno, la BCE sta lasciando a disposizione del sistema economico per agevolarne la ripresa. E non a caso la ripresa dell'Euribor parte fin da marzo, perché a marzo di quest'anno si ebbero i minimi assoluti, con l'Euribor addirittura sotto il mezzo punto percentuale, e da allora in poi la ripresa è stata molto lenta, come si può vedere, perché sono passati quasi 8 mesi, ma costante. Quindi anche questo superamento dell'1%, come diceva giustamente lei prima, non deve assolutamente destare allarmi, e tra l'altro stiamo parlando dell'Euribor a 3 mesi, perché poi Euribor, come forse molti non sanno, ce ne sono diversi, con durate diverse. L'Euribor a 1 mese, che è un altro dei parametri comunque utilizzati per i mutui, è ancora sotto l'1%, è allo 0,80, anche lui sta man mano risalendo, e ci si può aspettare che nell'arco di un paio di mesi anche lui si riporti sulla parità dell'1% rispetto al tasso BCE. Allora, vediamo un esempio classico invece, perché poi quello che interessa chi è in ascolto è anche l'effetto sui mutui, visto che appunto 3 su 4 in Italia sono a tasso variabile. Su un mutuo medio di 130.000 euro a 20 anni, c'è un caso abbastanza classico, abbastanza medio, che in questo momento paga è uno spread, è una differenza con la banca, con l'Euribor dell'1,4%, in questo momento si pagano circa 680 euro, dottor Ned. Ecco, ci illustri le differenze anche rispetto a pochi mesi fa, quando l'Euribor a 3 mesi era 0,07, e cosa capiterebbe se dovesse salire ulteriormente all'1,25, poniamo? Sì, diciamo che rispetto ai minimi toccati dall'Euribor, complessivamente c'è stato un aumento di circa 40 centesimi di punto del tasso, e questo proprio per un mutuo dell'importo medio attuale, cioè sui 130.000 euro, porta, a seconda della durata del mutuo, dai 20 ai 30 euro in più complessivi al mese, quindi su un mutuo molto breve, cioè di 10 anni, complessivamente adesso si pagano 20 euro, 20, 21 euro in più rispetto a 8-9 mesi fa. Se invece il mutuo è di più lunga durata, quindi 30 anni, si arriva di poco sopra i 30 euro al mese complessivi. Qualora i tassi dovessero salire ulteriormente, si può fare un rapido calcolo considerando che ogni quarto di punto di aumento del tasso di interesse, la rata di un mutuo sempre da 130.000 euro sale, anche qui a seconda delle durate, tra i 13 e i 18-19 euro al mese. Un'ultima domanda: quando cambia l'Euribor a 3 mesi, chiedono molti ascoltatori, cambia anche quello a 6 mesi? La risposta, insomma, dovrebbe essere delle cose, però insomma chiariamolo, perché è giusto ricordare che quello a 3 mesi è quello più sensibile, che le agenzie di stampa guardano per capire come si muove. È chiaro che poi cambiano tutti i tassi Euribor a 3, 6, un anno, dottor Nenda. Esattamente, ma infatti se prendiamo l'andamento dei 3 Euribor principali, cioè l'Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, da marzo ad adesso, ci rendiamo conto come tutti in realtà siano cresciuti, centesimo più, centesimo meno, alla fine allo stesso ritmo, e quindi tutti dello stesso ammontare, tutti sono adesso più alti di circa 40 centesimi rispetto ai minimi che avevano toccato all'inizio di quest'anno. Grazie, grazie, grazie al dottor Roberto Anedda. Sì, è vero quello che scrivono alcuni esploratori, che alcune banche usano l'Euribor addirittura 1 mese, va bene. Però non cambia, cioè al di là di quello che è la rata, la parte variabile cambia in base ai movimenti, non se è 1 mese, 3 mesi, è 1 anno. È chiaro che si ripercuote nella stessa maniera. Comunque adesso c'è il traffico e poi il rapporto fatto da Legambiente in collaborazione con il Sole 24 Ore sull'inquinamento delle città, nonostante gli investimenti fatti da alcune metropoli, tutte male le grandi città: Milano, Roma, Napoli, Palermo, tutte in fondo alla classifica. 349-238-6666 per gli sms. Allora, ultima parte di Focus Economia. Volete sapere perché aumenta l'Euribor? Aumenta l'Euribor perché, pur non venendo toccati i tassi, l'abbiamo già spiegato, comunque va bene rispiegarlo, la Banca Centrale Europea ha annunciato che drenerà liquidità dal sistema euro, e quindi ci sarà meno facile avere denaro, e conseguentemente questa tensione si spalma sul tasso interbancario a 3 mesi. Comunque, come promesso, adesso parliamo invece del rapporto Legambiente. Dice, perché un rapporto sull'ecologia in un programma di economia? Perché si chiama Eco Nomos, ecologia, e quindi c'entra. Sì, ha ragione anche Fulvio, basta andare a vivere in campagna, ma non è che tutti possono permettersi di andare a vivere in campagna, come cantava, se non ricordo male, Toto Cotugno. Ma non vorrei, sì, il tecnico mi fa segno che almeno in questo non ho detto una cavolata. E allora, presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, buonasera. Buonasera. Allora, presidente, già nei nostri GR lei ha ricordato, ma insomma il rapporto di quest'anno, anche quest'anno fatto assieme al Sole 24 Ore, la qualità ambientale nei comuni capoluogo italiani. Allora, al primo posto Belluno, Verbania, Parma, agli ultimi posti Palermo, Crotone e Catania, che non era scontato perché l'inquinamento non dipende, anzi può essere più basso laddove c'è meno reddito, però evidentemente così non è, ma soprattutto male tutte le città italiane con più di 500.000 di abitanti, Milano, Roma, Napoli e Palermo, perché scendono molto nella classifica. Allora, ci può aiutare a far capire perché voi parlate di allarme ambientale e perché scendono soprattutto le grandi città? Sì, questo è più che un allarme, è una conferma purtroppo, nel senso che la situazione delle città italiane è una situazione, diciamo così, malata da qualche anno, soprattutto perché non ci sono politiche alternative. Da questo punto di vista mi sembra invece molto indovinato l'inserimento in una trasmissione di economia, perché qui parliamo non di salute e di ambiente, ma che hanno molto a che fare con il territorio, con il sistema di governo e quindi anche con le occasioni che si offrono per nuovi lavori. Non è un caso che gli unici due settori dinamici in questa fase siano il settore delle energie rinnovabili e quello della raccolta differenziata. Per quanto riguarda la questione delle grandi città, sicuramente dobbiamo dire anche con onestà che le grandi città sono comunque più difficili da governare. No, ma è chiaro, ma è il peggioramento, non è il posizionamento in classifica che ci interessa, ma è il posizionamento, cioè Napoli ha perso 7 posizioni al 96esima, Milano ne ha perse quasi 20, era 46esima nel 2009, è scesa al 63esimo posto quanto inquinamento ambientale. Inquinamento urbano, Palermo 11 posizioni in meno a 101, Roma 13 posizioni in meno, 75esima, per cui insomma l'effetto cumulo immondizia, ma non solo. Soprattutto mi sembra di capire, me lo confermo. Mi dica. Roma o Milano sono rimaste in realtà stabili, ferme nelle politiche che hanno sviluppato in questi settori, mentre invece le città medie e piccole sono migliorate. E quindi cala la posizione in classifica perché è una posizione relativa. Sì, che se ci pensa è assurdo perché insomma le città piccole e medie hanno di solito meno problemi di inquinamento e dovrebbe essere la priorità nelle politiche dei sindaci di Roma, di Milano, di Napoli, di Palermo. No? Sì, in teoria hanno anche meno competenze a disposizione, per esempio uffici tecnici meno agguerriti e meno ricchi e quindi e questo è più difficile da spiegare. Sicuramente nelle città medio-piccole il sindaco è più vicino ai cittadini, ne capisce più rapidamente i bisogni e le esigenze. Oggi la spinta delle persone verso una qualità ambientale, una vivibilità delle città migliori è molto forte. Mi scusi, ma perché secondo lei non stanno funzionando? Voglio dire, a Milano c'è stato l'EcoPass che è servito all'inizio, poi mi sembra che a giudicare dal vostro rapporto non abbia avuto questi effetti. Come lei ricordava, gli uffici tecnici delle grandi città sono anche più agguerriti, hanno più strumenti, hanno più soldi. Insomma, qual è? Le lobby, spesso si evoca la lobby dei commercianti, dei centri storici che bloccano tutto perché sembra che uno se non parcheggia la macchina davanti ai negozi non riesce a fare shopping. Ma è così o stiamo ragionando di luoghi comuni? Ma guardi, oggi il sindaco Tosi di Verona diceva una sacrosanta verità. I commercianti si oppongono alle isole pedonali prima che vengano fatte. E dopo 2-3 anni che c'è un'isola pedonale si oppongono al fatto che vengano eliminate perché si sono resi conto che hanno dei vantaggi economici anche loro. Per quanto riguarda l'EcoPass, noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, era un atto coraggioso che però poi andava rinforzato di anno in anno fino a raggiungere i livelli per esempio di Londra, dove il road pricing è diventato un modo per finanziare, rimpolpare anche le casse del comune di Londra, oltre che rendere più vivibile la zona del centro. Ma... però Milano è anche l'unica città che ha avuto il coraggio di fare l'Ecopass. Ma lei ha un'idea, per concludere, se la sarà fatta, del perché poi hanno così difficoltà le metropoli a ridurre il tasso di inquinamento e applicare politiche che le facciano un po' salire in questa classifica che voi fate ogni anno con Sole 24 Ore? Ma guardi, io penso che molto conti la cultura politica della classe dirigente. I sindaci delle grandi città fanno parte a pieno titolo della società politica. La società politica italiana, senza grandi distinzioni di colori, ha una disattenzione nei confronti del valore di questi elementi, di questi fattori, anche come volano economico, oltre che come miglioramento della qualità della vita. È una disattenzione generalizzata che non c'è all'estero, dove anche governatori e presidenti di consiglio di centrodestra, come la Merkel, come Cameron, come Sarkozy, stanno sviluppando una grande attenzione alla riduzione delle emissioni di CO2, sono per esempio favorevoli ad arrivare alla riduzione del 30% delle emissioni in Europa, quindi c'è proprio un atteggiamento culturale diverso. Grazie, speriamo che l'anno prossimo la classifica sia diversa per le grandi città, non perché ci viviamo noi, ma insomma perché da lì deve partire anche... Ce lo auguriamo anche noi. Grazie al presidente di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza. E allora siamo in conclusione, chissà com'è l'inquinamento e la qualità ambientale ad Antigua, Giuseppe Cruciani. Credo si viva molto bene ad Antigua, infatti Berlusconi ha comprato un castello, una sorta di piccolo regno, e come sapete si è passati adesso dalla casa di Monte Carlo alla casa di Antigua, a proposito di polemiche politiche naturalmente, ci sentiamo tra poco. Grazie, sarebbe bello anche occuparsi poi dell'inquinamento delle case nostre, molto più modestamente a Milano, Palermo. Quello ci sei tu. Non a fare l'inquinamento, occuparmene. Grazie Giuseppe Cruciani, da Sebastiano Barigioni veramente tutto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.